4 di denari dopo 40 carte. Lui è un... E maestro, te l'ho detto io. Ma noi davanti a lui siamo niente, siamo... Lui quale più, ma io proprio niente. Guarda, non fate quei due punti. Ma non erano se ne andava a ragionare. Chi aveva quel 2, se no noi 3-4 punti facevamo, ma ha detto il 2. Quanti ne avevo fatti? Sì. Ne avete fatti 6 o 7. Anche se abbiamo fatto le decine non fate niente, perché... 27. La botta grossa è stata la seconda partita. Ma la stoma, no, normale, è dato del passatempo, dai. A 500 lire. Oh, tua madre fa così. Vabbè, fammo così, dai. Tua madre fa così, ieri fa così, si è graffiato il braccio. Ah, ha fatto così, si è graffiato il braccio. Chi? Lorenzo. Perché sbaglio, mi ha fregato 1.800 per la cartina.